Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. C'è un tema, è quello della giustizia, di cui si sta discutendo a livello nazionale, in Parlamento, con dibattiti, anche spesso purtroppo con litigi. C'è una giustizia però molto più vicina ai cittadini, per la quale c'è una novità importante. Ne parliamo con l'avvocato Alessandro Sartirana dell'ufficio legale dell'Adico. Ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, parliamo della mediazione. Che novità è questa, appunto, che ritorna obbligatoria, perché lo era fino all'anno scorso, c'è stato un anno così di interregno, possiamo dire, e adesso questa mediazione ritorna obbligatoria. Di cosa si tratta? Esattamente, dal 20 settembre di fatto è stata reintrodotta l'obbligatorietà della mediazione, c'è un procedimento alternativo di risoluzione delle controversie. In concreto, chi vorrà instaurare un procedimento civile davanti quindi al tribunale per gran parte delle controversie dovrà prima provvedere a richiedere un tentativo di mediazione. Per quale tipo di controversia? Perché ovviamente non tutte potranno passare di qui, credo. Non tutte, ma essenzialmente si tratta di un numero che copre gran parte delle controversie di cui solitamente sono intasati, diciamo, i nostri tribunali. L'unica rilevante differenza rispetto alla precedente normativa è che è stato escluso l'obbligo di mediazione per i sinistri stradali. Quindi lì si segue un'altra strada. Si può andare direttamente davanti al tribunale. Invece questa mediazione diventa obbligatoria, quindi non è che uno può scegliere. E come funziona? Cioè, c'è una controversia, chi introduce magari la questione e poi la controparte, a chi si rivolgono, diciamo, a chi si devono rivolgere? Diciamo che ci sono degli organismi abilitati, quindi iscritti regolarmente al Ministero, essenzialmente le Camere di Commercio o comunque organismi riconosciuti, e avanti i quali la parte che ha interesse, diciamo, che ha l'intenzione futura di provvedere a una controversia giudiziaria deve incardinare una domanda, cioè deve fare un tentativo di mediazione. Si occuperà poi l'organismo di far ricevere la domanda al destinatario, il quale potrà o meno decidere di partecipare all'incontro. E questo ovviamente prevede poi la partecipazione di entrambe le parti? Esatto, prevede la partecipazione di entrambe le parti. La caratteristica della mediazione è che è un procedimento del tutto informale a partecipazione volontaria, nel senso che l'accordo si potrà trovare solo quando entrambe le parti lo vorranno partecipare e riterranno possibile raggiungere una soluzione condivisa. Quindi io ti chiamo in giudizio perché magari penso di aver ricevuto un torto, ma se tu non ti presenti cosa succede? Se io non mi presento, intanto viene redatto un verbale negativo che è dato della mancata presentazione della controparte. Nel successivo giudizio, avanti quindi al giudice civile, lo stesso giudice potrà tener conto della mancata partecipazione quando non sia giustificata e quindi condannare la parte inadempiente che non ha provveduto a partecipare all'incontro di mediazione a una somma pari solitamente al contributo unificato versato pregiudizio più ulteriori condanne a spese legali. È obbligatorio questa via dunque per, ad esempio, problemi di condominio, successioni, eredità, affitti, contratti con assicurazioni, risarcimenti, danni, diffamazioni, insomma sono i casi più comuni, quelli che vediamo anche nelle trasmissioni televisive, cito Forum, insomma, per la più famosa, insomma, è quel tipo di causa. Assolutamente sì, è il tipo di cause che coinvolge assolutamente la maggior parte delle persone, perché sono comunque procedimenti di fronte ai quali quasi tutti ci siamo trovati almeno una volta. Eh sì, e magari poi non abbiamo proceduto perché non avevamo voglia o tempo di impegnarci. Infatti la mediazione consente effettivamente il raggiungimento di un risultato in tempi molto brevi e soprattutto a costi assolutamente contenuti rispetto a quanto prospettabile con un percorso in tribunale che al giorno d'oggi per un primo grado sappiamo durare 3-4 anni. Se va bene, ecco. Possiamo dare un ordine di grandezza dei costi e quali sono i costi che non si possono evitare? Allora, tendenzialmente il procedimento di mediazione viene introdotto come gratuito, quindi viene fissato un primo incontro preliminare tra le parti. Qualora venga rilevata subito dal mediatore l'intenzione di una delle parti di non partecipare o comunque di non procedere con la mediazione, i costi sono assolutamente limitati, si tratta solo delle spese di avvio del procedimento, una quarantina di euro. Qualora invece la mediazione dovesse proseguire e arrivare a un accordo, si tratta di un compenso da pagare all'organismo di mediazione che varia a seconda del valore. Comunque sono costi di qualche centinaio di euro per la maggior parte dei procedimenti, anche di valore non indifferente, che rapportati ai costi della giustizia ordinaria, sono davvero alla portata di tutti. I costi degli avvocati? I costi degli avvocati sono contrattati a parte e questo naturalmente vertono sono oneri che vertono a carico delle parti. Ovviamente teniamo presente che in caso di mediazione che si concluda positivamente, chi perde paga le spese legali. Può rientrare nell'accordo o può anche non rientrare nell'accordo, ma si tratta comunque di uno o due incontri al massimo contro le 5-6 udienze avanti al tribunale. Quindi anche l'attività dei legali ovviamente è ridotta. In che tempi si può risolvere una controversia tramite la mediazione? C'è una tempistica massima di 3 mesi dal momento dell'instaurazione della controversia, ma solitamente già al primo incontro, se le parti hanno la volontà di trovare un accordo e le posizioni non sono così distanti, già al primo incontro introduttivo viene redatto un verbale conciliativo. Novità importante, insomma, in tempi in cui si dibatte della giustizia nei suoi grandi temi, questo però effettivamente può essere una soluzione anche, lei diceva, avvocato, per snellire, per svuotare i tribunali. Assolutamente sì, credo che se cominceremo a pensare alla mediazione come realmente un mezzo efficace alternativo alla giustizia, si otterrà il duplice effetto di svuotare i tribunali e di incrementare la soddisfazione delle parti, perché troveranno effettivamente un accordo in tempi immediati, rapidi, e un accordo che avrà sicuramente una pronta esecuzione in quanto volontariamente raggiunto dagli interessati. Ne sapremo di più anche nel prossimo periodo. Questa è appena rientrata in vigore, questa obbligatorietà della mediazione. Grazie all'avvocato Sartirana dell'Adico, alla prossima. Grazie a voi. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.